Vedete, cara Ofelia, riprese a dire Maria con voce fioca e soave, io non parlo mai di me. Prima di tutto non ne ho l'abitudine e poi mi sarebbe sgradevole il farlo. A ogni modo me ne mancherebbe la forza. Ma su certi argomenti Sinclair e io siamo di opinione diversa. Sinclair non mi comprese mai, non mi apprezzò mai degnamente. Forse la mia cattiva salute ne è cagione. Le sue intenzioni saranno ottime, come voglio credere, ma gli uomini sono per natura egoisti e noncuranti verso le donne. Tale almeno è il concetto che ho dovuto formarmene. Miss Ophelia possedeva tutta quella prudenza che è quasi innata negli abitanti della Nuova Inghilterra e perciò aborriva dal prendere parte a discussioni di famiglia. Ella si avvide che era minacciata da qualche disgustosa confidenza, perciò assunse un aspetto di impassibilità e tirando fuori dal grembiule un lavoro a maglia lungo 3 piedi e mezzo che portava con sé come uno specifico controllozio, si diede a lavorare speditamente con le labbra serrate, quasi volesse dire: è inutile, io non mi ingerirò punto nei vostri affari. Una sfinge di marmo avrebbe ispirato maggiore confidenza, ma la signora Sinclair poco o nulla si curava di ciò. Ella aveva qualcuno con cui parlare e si credeva in obbligo di parlargli, perciò Maria continuò le sue chiacchiere, dopo essersi ravvivata agli spiriti, fiutando la boccetta. Saprete che sposando Sinclair gli ho recato in dote non solamente i miei beni, ma anche un certo numero di schiavi che la legge mi autorizza a trattare come mi piace. Sinclair, dal canto suo, possedeva beni e schiavi egli pure, per me non mi oppongo affatto che li governi a modo suo, ma Sinclair pretende di intromettersi nei miei affari. Egli ha idee stravaganti sopra una gran quantità di cose, e specialmente sulla maniera con cui debbono essere trattati gli schiavi, e si comporta talvolta in guisa da parer veramente che gli anteponga costoro a me e a sé medesimo. Di più, tollera che costoro mi diano una noia inesprimibile, senza che gli levi neppure un dito per opporvisi. Sopra certi argomenti, Sinclair, buon figliuolo, come pur sembra, è veramente terribile. Vi dico il vero che mi spaventa. Lo credereste? Egli si è ficcato in capo che qualunque cosa succeda, nessuno di casa, tranne lui o io, possa battere uno schiavo. Egli è intestato su questa strana risoluzione. E quale ne è la conseguenza? Gli potrebbero passare sul collo che Sinclair non alzerebbe una mano, in quanto a me vedete bene, mia cara, che sarebbe crudeltà il costringermi a farlo. Ora, come sapete, questi schiavi non sono altro che fanciulloni. Io non so nulla di tutto ciò e ne ringrazio il Signore, rispose laconicamente Miss Ophelia. Ebbene, lo imparerete a vostre spese se restate con noi. Voi ignorate quale sia l'insolenza, la stupidità, la trascuranza, la fanciullaggine e l'ingratitudine di questo branco di sciagurati. Maria era sostenuta da una forza soprannaturale ogni volta che parlava di quel soggetto e la spalancava gli occhi e pareva avesse dimenticato del tutto il suo stato di langore. Voi non conoscete e non potete ancora conoscere quanti fastidi e affanni costoro procurino a una padrona di casa. Ad ogni ora e momento, ma è inutile lagnarsene con Sinclair. Egli risponde alle maggiori stranezze, dice che noi abbiamo fatto costoro quali sono e che perciò dobbiamo sopportarli. Dice che i loro difetti provengono da noi e che sarebbe cosa crudele il punire in essi i propri difetti e che al loro posto noi ci condurremmo come loro e peggio. Come se si potesse stabilire un confronto tra costoro e noi, capite? Beh, non credete che il Signore Dio li abbia fatti di un medesimo sangue che noi altri? Domandò Miss Ophelia. No, in verità no! È una favola, in fede mia, costoro! È una razza vile, abietta! Non credete che abbiano anch'essi un'anima immortale? Disse Miss Ophelia con crescente indignazione. Oh, sì! Oh, rispose Maria sbadigliando. Quanto a ciò, naturalmente, nessuno ne dubita. Ma metterli a un medesimo livello con noi è impossibile. Eppure Sinclair osò dirmi che tenere lontana Mammy da suo marito è come se io fossi separata dal mio. Si può dar di peggio? Paragonare me a una schiava? Mammy può ella sentire quello che io sento? C'è una diversità enorme e Sinclair dice di non capirla. Guardate, sarebbe lo stesso che mi si volesse far credere che Mammy ama i suoi sudici scimmiotti come io amo la mia cara bambina. Ebbene, lo credereste? St. Clair si è sforzato di persuadermi che, nonostante la mia poca salute e i miei patimenti continui, avrei dovuto lasciare tornare Mammy da suo marito. Io, sapete, non sono usa a manifestare troppo spesso la mia opinione, è anzi una delle mie massime, il sopportare ogni cosa in silenzio. Ma una tal proposta superava la mia pazienza. Io, lo ripeto, mi sono imposta la legge di soffrire tutto senza lagnarmi. Ah, questo è il triste destino delle donne, io mi ci sottometto. Ma quella volta andai proprio su tutte le furie, tanto che Sinclair non ha più fatto alcuna allusione a questo argomento. Ma io ho capito dai suoi occhi e da alcune sue parole dette alla sfuggita che egli è sempre del medesimo parere. Ciò in verità mi affligge oltremodo. Miss Ophelia pareva anch'ella lì lì per uscire dai gangheri e i suoi ferri andavano con tal prestezza che esprimeva un'infinità di cose, ma disgraziatamente Maria non lo comprese e continuò a dire: Vedete dunque quale ardua impresa vi siete assunta. Governare una casa dove non esiste alcuna regola, tenere a freno servi avvezzati a fare tutto ciò che vogliono e che non ebbero mai altro sindacato che il mio, il debole sindacato di una donna sofferente e cagionevole. Io porto me con la frusta e di quando in quando la fo fischiare, ma è una fatica che mi ammazza. Ah, se Sinclair volesse fare gli stesso ciò che fanno tanti altri. E che fanno? Mandano i loro schiavi colpevoli a Calahouse o in quale altro luogo o in qualche altro luogo per esservi frustati. Non c'è altro mezzo che questo. Se io non fossi così debole e malaticcia, credo che maneggerei la frusta con più energia di quanto potrebbe fare Sinclair medesimo. Come fa dunque Sinclair a farsi obbedire? Voi mi dite che non percuote mai i suoi servi. Ah, gli uomini hanno maggiore autorità di noi e sanno comandare assai meglio. D'altra parte, se avete bene osservato gli occhi di Sinclair, avrete veduto in essi alcunché di particolare, e quando gli parla da uomo risoluto ne sconfuori lampi e faville che fanno tremare anche me. I servi sanno bene allora che bisogna obbedire. Io invece ho un bel da fare a sgridarli e riprenderli e perfino minacciarli, essi se ne ridono, mentre Sinclair con una sola occhiata ottiene tutto. Ah, in quanto a lui, non temete, il male è che egli non sa mettersi mai al mio posto. Del resto, voi vedrete, mia cara, che senza severità non verrete a capo di nulla. Costoro sono tanto maligni e infingardi. Sempre la stessa canzone. Esclamò Sinclair entrando. Che conto terribile queste malvagie creature dovranno rendere all'estremo giorno, massimamente per la loro infingardaggine. Voi comprendete bene, cugina, continuò egli sdraiandosi mollemente sopra un divano dirimpetto a Maria, che l'infingardaggine di costoro è tanto più inesplicabile in quanto che Maria ed io non ne diamo loro che esempi stupendi. Quanto siete cattivo, disse Maria. Come Maria? Io credevo di parlare saggiamente, di corroborare le vostre proprie osservazioni. M'ero ingannato dunque. Oh, vi ringrazio, cara, di avermelo fatto capire. E io invece capisco che avete voglia di mettermi di cattivo umore. Oh no, Dio me ne guardi, Maria, l'interruppe Sinclair. Il calore oggi è eccessivo e io proprio in questo momento ho avuto una disputa con Adolfo, la quale mi ha stancato orribilmente. Siate buona, vi prego, e concedete che io riposi nella luce del vostro sorriso. Qual è stato il motivo della vostra disputa con Adolfo? L'impudenza di costui diventa ogni giorno più insopportabile. Vorrei essere io per alcun tempo la sua padrona assoluta e lo vedreste presto umile come un agnellino. Quel che voi dite, mia cara, è improntato della solita vostra perspicacia e del consueto vostro buonsenso. Ecco di che si tratta. Adolfo si è così a lungo ingegnato di imitare le mie grazie e le mie perfezioni che è riuscito da ultimo a credersi tutt'uno col suo padrone e io sono stato costretto a fargli capire il suo inganno. Come? Fece Maria. Ho dovuto, dico, fargli capire in modo chiaro che io desideravo di conservare il godimento di alcuni miei abiti. Ho dovuto altresì circoscrivere il suo lusso in quanto all'uso che gli fa della mia acqua di colonia e finalmente ho avuto la crudeltà di non lasciargli che una dozzina di fazzoletti di tela di batista. Adolfo era quasi sul punto di ribellarsi, ma io gli ho parlato da padre per rimetterlo sulla buona via. Oh, Sinclair, quando imparerete a trattare coi servi è una cosa veramente abominevole l'essere così indulgente, disse Maria. Ma in fin dei conti, che male c'è se questo povero diavolo desidera di rassomigliare al suo padrone? Se io gli ho dato una così cattiva educazione da fargli considerare l'acqua di Colonia e i fazzoletti di tela batista come il supremo dei beni, per qual ragione non gliene dovrei dare? E perché non l'avete educato meglio? Esclamò Miss Ofelia con uno sforzo di coraggio. Ah, oh, per troppa noia, cugina mia, pigrizia. Ah, la pigrizia, ecco quel che danna l'anima più di tutto il resto. Senza la pigrizia io stesso sarei un angelo. Io inclino a pensare che la pigrizia è quel che il vostro vecchio dottor Bodrem nel Vermont era solito chiamare l'essenza di male morale. Questa è davvero una riflessione giustissima. È una grave, spaventosa responsabilità quella di voi altri possessori di schiavi, disse Miss Ophelia. Per tutti i tesori del mondo io non vorrei assumermela. Voi dovreste istruire i vostri schiavi e trattarli come creature ragionevoli, che hanno un'anima come noi. Senza dubbio ne risponderete dinanzi al tribunale di Dio. Questa è la mia convinzione, esclamò la buona damigella, dando finalmente sfogo all'indignazione compressa che le bolliva nell'anima. E via, disse Sinclair alzandosi vivamente. Voi non ci conoscete ancora. E mettendosi al pianoforte, eseguì un'allegra suonata. Egli aveva una meravigliosa disposizione per la musica. Il suo tocco era fermo e brillante, le sue dita volavano sulla tastiera con la leggerezza di una rondinella che rade le acque. Egli suonò vari pezzi di musica, come se cercasse di scacciare un'idea molesta, e finalmente, mettendoli in disparte, si alzò e disse sorridendo: Ebbene, cugina, voi ci avete dato una lezione eccellente e avete adempiuto un dovere. Insomma, io credo di volervene più bene che mai. Non ho il minimo dubbio che sia una verità e ne sono stato colpito così bene in mezzo alla fronte che, sbalordito, non ho potuto sulle prime apprezzarne il valore. Quanto a me, non sono dello stesso parere, disse Maria. Vorrei sapere se esiste alcun altro possessore di schiavi che sia buono e amorevole coi suoi come siamo noi coi nostri. Ma ciò è affatto inutile. Costoro non ne approfittano per diventare migliori. In quanto all'insegnare loro i propri doveri, io spesso ebbi a perderne la voce. Io permetto loro di andare in chiesa, benché non veda il gran vantaggio che possono ricavarne, poiché credete forse che intendano qualche cosa del sermone? Oh, boh, ma sì, ci vanno e basta. Come già dissi, sono una razza degradata e tale saranno in perpetuo, checché si possa fare per migliorarli. Provatevi pure. Non verrete a capo di niente, perché vedete, cugina, io ho provato e voi no. Io sono nata e cresciuta fra loro e li conosco. Miss Ophelia, giudicando di aver parlato abbastanza per allora, non rispose. Sinclair si mise a fischiare un'arietta. Sinclair, vi sarei grata se non fischiaste. Il vostro fischio aumenta il mio mal di capo. Smetto subito, rispose Sinclair. C'è altra cosa che non vorreste che io facessi? Desidererei che aveste compassione dei miei patimenti, ma voi non li avete mai compresi. Oh, caro angelo accusatore, disse il marito, nulla mi affligge tanto quanto il sentirvi parlare così. In qual modo volete dunque che vi parli? Comandate e sarete obbedita. Un allegro scoppio di risa risuonò nel cortile attraverso le tende di seta della veranda. Sinclair vi si avvicinò e, dopo aver aperto le tende, si pose a ridere anch'egli. Che c'è? Domandò Miss Ophelia. Sopra un verde cespo nel cortile stava seduto Tom con un ramo di gelsomino in ciascuno degli occhiali del suo vestito, mentre Evangelina, ridendo di cuore, gli sospendeva al collo una ghirlanda di rose. Compiuto che la ebbe lo scherzo, si rannicchiò come un uccelletto sulle sue ginocchia, continuando a ridere rumorosamente. Oh, Tom, diceva, che bella figura fate! Tom, con un sorriso grave e benevolo, stava guardando la fanciulletta e pareva che, al pari della sua padroncina, godesse di quello scherzo. Quando egli si avvide del suo padrone, lo guardò con aria confusa e come in atto di scusarsi con lui. Come potete permettere che si facciano tali cose? Disse Miss Ophelia avvicinandosi ella pure alla veranda. E perché no? Domandò Sinclair. Non so perché, ma ciò in verità mi fa orrore. Ecco, Voi non trovereste da ridire che un fanciullo accarezzasse un grosso cane anche quando il grosso cane fosse tutto nero, ma se in quella vece una creatura che pensa e che sente, una creatura dotata di un'anima immortale, voi ne inorridite, cugina. Io conosco i pregiudizi di voi altri del nord. Non è già per virtù che noi altri ne andiamo esenti, ma l'abitudine fa in noi quello che dovrebbe fare il cristianesimo. Essa distrugge le ripugnanze naturali. Spesso nei miei viaggi nel nord rimasi maravigliato vedendo quanto la vostra ripugnanza per i neri sia più forte della nostra. Voi li sfuggite come si sfuggirebbe un rospo o un serpente, e al tempo stesso non vorreste che fossero maltrattati, ma ricusate di avere a che fare con loro. Vorreste che fossero mandati tutti in Africa, lontani dalla vostra vista e dal vostro odorato, e che uno o due missionari si recassero colà a convertirli, e che questi missionari epilogassero la carità cristiana di tutta la nazione verso i neri. Non è vero, cugina? E forse c'è qualche cosa di vero in quanto voi dite, rispose Miss Ofelia pensosa. Che farebbero infatti i poveri e gli umili senza i fanciulli? Continuò a dire Sinclair appoggiandosi al parapetto e seguendo con gli occhi Evangelina, la quale si allontanava tenendo Tom per la mano. Il fanciullo è il solo vero democratico. Tom è per Evangelina un eroe. Le novelle di lui le paiono meravigliose. Le sue canzoni, i suoi inni metodistici valgono per lei uno spartito. La tasca di Tom, piena di balocchi, è una miniera di diamanti. Egli è il più ammirabile Tom che una pelle nera abbia mai coperto. Il fanciullo è una di quelle rose dell'Eden che Dio lascia cadere sulla strada dei poveri e degli oppressi, per i quali non ne fioriscono altre. È una cosa assai strana, cugino mio, disse Miss Ofelia. A sentirvi parlare vi si crederebbe un professante. Un professante? Ripeté Sinclair. Non vi comprendo. Sì, uno che professi manifestamente qualche religione. Oh, ahimè. No, no, no, io non sono un professante, come voi dite. È quel che è peggio e mi fa paura. Non sono nemmeno un praticante. Che cosa dunque vi fa parlare in tal modo? Ah, oh, nulla è più facile del parlare, rispose il cugino di Miss Ofelia. Credo sia Shakespeare che fa dire a uno dei suoi personaggi: io preferisco insegnare il bene a 20 persone che essere uno dei 20 pronti a mettere in pratica i miei insegnamenti. Niente c'è di meglio che la divisione del lavoro. La mia bravura consiste nel parlare, la vostra, cugina, nell'operare. Nella condizione esterna di Tom, nulla v'era in quel tempo di cui egli avesse, come si suol dire, motivo di lagnarsi. L'amicizia che sentiva per lui Evangelina, l'istintiva gratitudine di quell'indole nobile e affettuosa, l'avevano spinta a chiedere al padre di porla sotto le cure di Tom ogni volta che ella avesse bisogno della compagnia di uno schiavo. Perciò era stato ordinato a Tom di lasciare ogni altra cura per accompagnare Miss Eva nelle sue passeggiate a piedi o a cavallo. E i nostri lettori ben si immagineranno quanto tali ordini fossero graditi a Tom. Egli fu vestito decentemente, poiché Sinclair era difficilissimo su questo punto. Il suo servizio alla scuderia non consisteva che in una quotidiana ispezione di quelle nel dare ordini a uno staffiere. Maria Sinclair non avrebbe potuto soffrire che le si avvicinasse un uomo da cui esalasse un qualche odore di stalla, poiché a suo dire un solo alito di cattivo odore sarebbe stato sufficiente a darle la morte e por termine così, una volta per sempre, alle sue tribolazioni terrestri. Perciò Tom, nei suoi abiti di panno bene spazzolati, col suo lucido cappello di castoro, gli stivali lustri, il colletto, i polsini bianchissimi, la sua grave, benevola e nera fisionomia, aveva un aspetto abbastanza rispettabile per farne un vescovo di Cartagine, onore che ebbero in altra età uomini del suo stesso colore. E poi egli abitava in una dimora bella e piacevole quant'altra mai, considerazione alla quale gli uomini della sua razza non sono mai indifferenti, ed egli godeva con una soave e placida gioia degli augelletti, delle fontane, dei fiori, della luce e dei leggiadri ornamenti del cortile, le tende di seta, le pitture, i candelabri, le statuette, le dorature, cambiavano per Tom le sale terrene di quella casa in una specie di palazzo di Aladino. Se l'Africa possederà mai una razza colta e gentile, e di certo bisognerà bene che essa una volta o l'altra reciti la sua parte nel gran dramma della civiltà europea, la vita vi scorrerà con uno splendore e con una magnificenza di cui le nostre fredde tribù occidentali hanno appena un'idea. In quel misterioso e lontano paese dell'oro, dei diamanti, dei profumi, delle palme ondeggianti, dei fiori meravigliosi, della fertilità prodigiosa, verranno fuori nuove forme dell'arte, splendidezze inaudite. E la razza nera, affrancata dal disprezzo e dall'oppressione sotto cui essa geme attualmente, ci recherà forse le ultime e più magnifiche rivelazioni dell'attività umana. Mansueti e umili di cuore, inclinati a lasciarsi guidare da una mente superiore e riposarsi in un più alto potere, amorevoli e semplici come fanciulli, pronti a perdonare sempre, i neri saranno forse un giorno la manifestazione più pura della vita cristiana. E forse il Dio, il quale castiga coloro che gli ama, pose la povera Africa nel crogiuolo dell'afflizione, acciò che ella sia la più grande e la più nobile di tutte le nazioni in quel regno che egli fonderà, allorché ogni altro regno sarà caduto, impero che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. Non erano questi i pensieri di Maria Sinclair la mattina di una domenica mentre stava adorna di magnifiche vesti sopra la veranda e intorno al suo delicato polso fissava col fermaglio un braccialetto guarnito di diamanti. Tuttavia, a qualche cosa ella pensava. Le istituzioni utili le stavano a cuore ed ella si disponeva a recarsi molto devotamente, carica di gioielli, di seta, di trine, alla chiesa frequentata dal bel mondo. Maria si era fatta una regola di essere dedita alla pietà ogni domenica. Ella si teneva colà svelta, elegante e tutta grazia nei movimenti, ravvolta in una sciarpa di merletti come in un vapore. A tutti gli occhi, ella appariva una leggiadra creatura e sentiva di essere molto pia e molto elegante. Miss Ofelia, ritta al suo fianco, era un contrapposto perfetto. Non già che la sua veste di seta, il suo scialle, il suo fazzolettino da tasca fossero meno belli, ma vi era in tutta la sua persona alcunché di duro, di angoloso, di inflessibile, che offendeva lo sguardo quanto lo dilettavano le grazie della sua vicina. Tranne la grazia di Dio, ben si intende. Dov'è rimasta Eva? Disse Maria. Si è fermata sulla scala per dire qualcosa a Mammy, rispose Miss Ofelia. E che diceva Evangelina a Mammy per le scale? Ecco, lettrice, le parole di quell'angelo che Maria non udiva. Io so, cara Mammy, che tu soffri per il dolor di capo. Oh, Miss Eva, il capo mi duole di continuo da poco tempo in qua, ma di ciò non vi prendete pensiero. Insomma, io godo che tu esca. E tieni qua, disse la fanciulletta circondandola con le sue braccia, prendi la mia boccettina di odore. Che? La vostra bella boccettina d'oro? Oh, Signore Dio, non voglio, madamigella, non è cosa che mi si addica. E perché no? Tu ne hai bisogno, io non so che farne. Mamma se n'è sempre servita per i suoi mali di capo. Tu te ne sentirai meglio, su, via, prendila per far piacere a me. Oh, che cara fanciulla, disse Mammy mentre Evangelina le metteva in seno la boccetta e abbracciatala teneramente correva da sua madre. Perché ti sei fermata? Disse Maria. Ho dato a Mammy la mia boccettina d'odore affinché se la porti in chiesa. Storditella! Gridò Maria battendo i piedi con impazienza. La tua boccettina d'oro a Mammy? Quando imparerai ciò che è conveniente, va subito a riprenderle senza il minimo indugio. Evangelina guardava tutta confusa e rattristata. E lentamente si allontanava. Maria, disse sopraggiungendo Sinclair, lasciale fare ciò che le aggrada. Sinclair, come volete che la impari a condursi nel mondo? Disse Maria. Lo sa Dio, ma ella si incamminerà al cielo meglio di noi due. Oh, babbo, non parlate a questo modo, disse Evangelina, posando la mano dolcemente sul braccio di lui. La mamma se ne affligge. Ebbene, cugino, siete pronto a venire in chiesa? Domandò Miss Ofelia volgendosi come se girasse sopra un pernio a Sinclair. Non ci vengo io, grazie. Vorrei che Sinclair si risolvesse a entrare in chiesa, disse Maria, ma egli non ha un briciolo di religione, veramente cosa poco onorevole. Lo so, riprese Sinclair, ma voi altre donne andate in chiesa per imparare come dobbiate contenervi nel mondo, suppongo, e la vostra pietà manda su noi un riflesso stupendo. Del resto, se io volessi andarvi, andrei dove è solita andare Mammy. Colà almeno c'è qualche cosa da tenere desto un galantuomo. Che? Fra gli eterni strillatori, come sono i metodisti? un orrore!» esclamò Maria. «Qualunque cosa io preferirei al mare morto della rispettabile vostra chiesa. È un pretender troppo veramente il chiedere a un uomo che ci vada. E tu, Eva, ti senti voglia di andarvi? Resta a casa se vuoi, giocherai con me.» «Oh, grazie, babbo, io preferisco andare in chiesa.» «Non ti ci annoi?» disse St. Clair. «Qualche volta», rispose Evangelina, «e allora mi sento cascare dal sonno, ma procuro di tenermi desta.» «Perché dunque ci vai?» «Perché, capisci, babbo», gli rispose ella a bassa voce, «la cugina mi ha detto che il Signore lo ha molto caro. Egli ci dà tutto quello che possediamo, e il far ciò, se glielo desidera, non ci deve costare alcuno sforzo. Non è cosa che annoi tanto alla fine.» «Tu sei un caro cuoricino», disse St. Clair abbracciandola. «Va pure, vai, buona bambina, e prega Dio per me.» «Oh, certo, non mi dimentico mai di farlo», disse la fanciullina e saltò prestamente in carrozza con sua madre. Mentre le tre donne si allontanavano, St. Clair stava fermo sulla gradinata, mandando con la mano baci alla sua figlioletta e gli cadevano grosse lacrime dagli occhi. «Oh, Evangelina», disse egli. «Ti sta pur bene un tal nome. Il Dio mi diede veramente in te un Vangelo.» Rimase in questo pensiero alcuni istanti. Poi fumò un sigaro, lesse un giornale del mattino e dimenticò il suo piccolo Vangelo. «Senti, Eva», le disse sua madre durante il cammino, «è cosa ragionevole il mostrarci buoni coi servi, ma non è conveniente che li trattiamo come amici o persone del grado nostro. Per esempio, se me mi fossi ammalata, non la faresti coricare nel tuo letto, non è vero?» «Eppure direi di sì, mamma, perché mi sarebbe più facile averne cura, capisci? È perché il mio letto è migliore del suo.» Maria fu oltremodo dolente della mancanza assoluta di sentimento morale che si rivelava in quella risposta. «Oh, che posso fare perché questa bambina mi intenda?» «Nulla», rispose Miss Ofelia in modo significativo. Evangelina per un momento fu triste e conturbata, ma fortunatamente le impressioni non durano a lungo nel cuore dei fanciulli, e dopo alcuni istanti ella rideva di varie cose che, stando affacciata allo sportello, vedeva nella via. «Ebbene, mie care signore», disse St. Clair quando furono comodamente seduti a tavola per pranzare, «che avete ascoltato di buono oggi alla chiesa?» «Il dottor Goodway ha fatto un sermone stupendo», disse Maria. «Un sermone che voi avreste dovuto ascoltare. Vi erano espressi i miei sentimenti medesimi e le mie opinioni.» «Oh, deve essere stato ammirevole», replicò St. Clair. «E l'argomento doveva avere per certo una grande estensione. Intendo i miei sentimenti e le mie opinioni sulla società. Il testo era: egli fece ogni cosa bella nella sua stagione. Il predicatore ha dimostrato che tutte le distinzioni e tutti gli ordini sociali vengono da Dio, e quanto è saggia e conveniente la disposizione che vi siano ricchi e poveri, che gli uni siano nati per comandare e gli altri per servire. Ha applicato mirabilmente queste massime alle ridicole ciance che corrono intorno alla schiavitù e provato con ogni chiarezza che la Bibbia sta dalla parte nostra e serve d'appoggio incontrastabilmente a tutte le nostre istituzioni. Oh, vorrei che lo aveste udito!» «Ah, che pro! I giornali mi danno insegnamenti simili, intanto io posso fumare un sigaro, cosa che non è lecita in chiesa. Ma dite di grazia, voi non partecipate a questi sentimenti e opinioni?» domandò Miss Ofelia. «Che? Io? Oh, vedete, cugina, partecipo così poco della grazia del cielo che non rimango punto convinto delle considerazioni religiose che si fanno su tali argomenti. Se io dovessi dire qualcosa sulla schiavitù, direi chiaro e tondo: noi l'abbiamo, ne approfittiamo e vogliamo mantenerla perché così vuole il nostro interesse. Il problema sarebbe sciolto con poche parole, che sono infine il compendio di tante ciarle devote fatte su questo soggetto.» «Che irriverenza!» disse Maria. «Fa ribrezzo a sentirvi parlare in cotesto modo.» «Ribrezzo? Eppure non è che la verità? Perché i vostri predicatori non vanno anche un poco oltre e non dimostrano che è bello il vedere a tempo e luogo vuotare qualche bicchiere di più o passare la metà della notte a giocare alle carte e darsi qualche altra delle distrazioni che la provvidenza ci concede? Perché Piacerebbe tanto di sentire che anche queste sono cose sante e buone. Ma alla fine, credete voi che la schiavitù sia cosa giusta o riprovevole? Domandò Miss Ophelia. Cara cugina, voi altri del Vermont, disse giovialmente Sinclair, avete una dialettica che spaventa. Se io rispondessi a uno dei vostri quesiti, voi mi piombereste addosso con altri cinque o sei, e ciascuno più complicato del precedente, né io mi sento voglia di definire la mia opinione. Io sono uno di quelli che si dilettano a tirar sassi contro le case di vetro dei loro vicini, ma che non intendono di fabbricarne una per tema che si faccia altrettanto con essa. Sempre a questo modo, disse Maria, non ne caverete mai altro. Egli trova sempre qualche scappatoia, e ciò perché, se non per poco amore della religione. Ah. Alla religione, esclamò Sinclair con un accento che fece alzare la testa alle due donne. Ma chiamate voi religione questa dottrina che sale o scende, si piega o si torce secondo le fasi di una società tutta mondana? È una religione quella che è meno scrupolosa, meno generosa, meno giusta e amorevole verso l'uomo di quanto non lo sia io, benché irreligioso, mondano e cieco? No, quando io cerco la religione, guardo a qualche cosa che sia al di sopra di me, non al di sotto. Dunque, voi non credete che la Bibbia giustifichi la schiavitù? Domandò Miss Ophelia. La Bibbia era il libro prediletto di mia madre, rispose Sinclair. Ella ne seguì i precetti durante la vita e all'ora della morte, e mi dovrebbe altamente pensare che quel libro giustifichi la schiavitù. Mi riuscirebbe meno penoso se mi dicessero che mia madre beveva acquavite, masticava tabacco e bestemmiava per convincermi che io posso fare altrettanto. La mia opinione sopra questi difetti non si muterebbe perciò, ma mi verrebbe tolto quel conforto che io provo nel rispettare la memoria di lei, ed è veramente cosa dolce in questo mondo avere qualche cosa da rispettare. Ciò che io voglio, insomma, continuò egli ripigliando il suo fare gioviale, è che ogni cosa sia collocata al suo posto. L'edificio sociale in Europa e in America si compone di parti che non reggono all'esame un po' severo della moralità. È riconosciuto quasi generalmente che gli uomini e le donne non aspirano alla perfezione assoluta, ma si appagano di operar bene come il resto del mondo. E perciò, quando un uomo parla schiettamente e asserisce che la schiavitù c'è necessaria, che non potremmo farne a meno, che mancandoci quella saremmo ridotti alla mendicità, e che per siffatta ragione intendiamo di conservarla, un simile modo di ragionare mi sembra chiaro, fermo, logico e rispettabile per la sua sincerità. Ma quando un uomo, allungando il muso e parlando con voce nasale, viene a citarmi il Vangelo, non ne sono persuaso. Voi siete senza carità, Sinclair, disse Maria. Ebbene, riprese Sinclair. Supponiamo che una cagione qualunque facesse al fine ribassare e per sempre il prezzo del cotone e gli schiavi fossero divenuti una merce di nessun valore sul mercato. Non credete voi che si avrebbe presto un'altra versione della Sacra Scrittura? Lasciate che la schiavitù diventi inutile e vedrete la Chiesa illuminata di nuova luce scoprire che la schiavitù è condannata dalla Bibbia e dalla ragione. Comunque, disse Maria, stendendosi sul divano, io ringrazio il cielo d'avermi fatta nascere in un paese dove la schiavitù esiste. Io credo che la schiavitù sia veramente legittima, sento in me che deve essere così. E ad ogni modo so che non potrei farne senza. E tu, cara piccina, che ne pensi? Chiese il padre a Evangelina, la quale entrava allora con un fiore in mano. Di che, babbo? Che cosa ti par meglio, vivere come da tuo zio nel Vermont o avere come qui da noi la casa piena di servi? Oh, già, si intende che è migliore il nostro modo di vivere, esclamò Evangelina. Perché? Domandò Sinclair accarezzando quella testolina di cherubino. Perché abbiamo d'intorno più persone da amare, rispose Evangelina guardandolo con gran serietà. Ben si riconosce Eva da una tale risposta, disse Maria. Ella tiene sempre strani discorsi. È questo un discorso strano, babbo? Gli chiese a fior di labbra mentre si arrampicava sulle sue ginocchia. Piuttosto sì che no, nel mondo in cui viviamo, disse Sinclair. Ma dove è stata in tutto il tempo del pranzo la mia piccola Eva? Io sono stata nella camera di Tom a sentirlo cantare e la zia Dina mi ha portato da pranzo. A sentirlo cantare? Oh sì, egli canta bellissime cose della Nuova Gerusalemme, degli angeli e del paese di Canaan. Io sono certo che ti piacciono più dell'opera in musica, non è vero? Sì, ed egli mi insegnerà a cantarle. Lezioni di canto, eh? Fai progressi. Sì, egli canta per farmi piacere, io in ricambio gli leggo la Bibbia ed egli mi spiega tutto quello che non intendo. Ma davvero? Disse Maria, questa è la più gustosa borletta. Giurerei, disse Sinclair, che Tom non è cattivo commentatore della Bibbia. Egli ha disposizioni naturali alla pietà. Io avevo bisogno stamani di far sellare il mio cavallo per tempo e sono entrato nella sua cameretta sopra la stalla e colà l'ho udito che teneva un meeting da sé solo. E in verità non ho mai sentito nulla di più caro della sua preghiera. Egli mi raccomandava a Dio con uno zelo veramente apostolico. Forse si era accorto che lo ascoltavate. Questo artifizio non è cosa nuova. In tal caso, egli non avrebbe dimostrato molta politica perché esprimeva piuttosto liberamente al Signore l'opinione che ha di me. Egli mostrava di credere che ho molto bisogno di migliorarmi e faceva ardenti voti per la mia conversione. Spero che ci penserete, disse Ofelia. Suppongo che voi siate della stessa opinione di lui, soggiunse tosto Sinclair. Ebbene, vedremo. Non è vero, Eva?